Ehi, cosa? L'espressione. So solo io quanto insisto. Premesso che questo è l'ennesimo disco, dal primo fino all'ultimo verso costruisco. Premesso che questo è l'ennesimo disco, per spingerlo so solo io quanto insisto. Premesso che questo è l'ennesimo disco, dal primo fino all'ultimo verso costruisco. Premesso che questo è l'ennesimo disco, per spingerlo so solo io quanto insisto. Cristo, se in congiunzione tra parole, o quando bestemmio la console. Oh, nove giorni, rime nuove, nove prove, prove del nove, classe, data e nome. Cammino tra persone di canzone, sono il pusher, mischio inchiostro con tenen super. Supero bigotti a chiave, menti chiuse come cassaforte con lingotti ben sicure. Diverse le culture, se copi non fai l'affare. Siamo tutti diversi, che ci vedi di uguale. È questo che ci fa elevare e soffermare. Uso punta di matita, mica punta di pugnale. A me tanto non mi cambia se c'è la rabbia. Prima o poi crolla il tuo castello di sabbia. Nonostante tutto resta tutto a posto se restiamo uniti dalla carta e dall'inchiostro. Premesso che questo è l'ennesimo disco, dal primo fino all'ultimo verso costruisco. Premesso che questo è l'ennesimo disco, per spingerlo so solo io quanto insisto. Premesso che questo è l'ennesimo disco, dal primo fino all'ultimo verso costruisco. Premesso che questo è l'ennesimo disco, per spingerlo so solo io quanto insisto. Io rappo ancora ma sempre si migliora. Scrivo nell'ora di storia, quindi col rap faccio scuola. Stampo dischi artigianali fatti con sudori, emozioni, situazioni singolari. A pari passo con la cronaca, l'equalità di sagittà diventa musica elettronica. Metodi perciò diventa metodica, sperando che contagi tipo peste bubonica. È la mia etica, ma il rap è per me, perché a modo mio Dio qui non dice beh. Sai com'è, se insisto per la punta dell'obelisco. Sconosciuto il futuro, ma di sicuro il rap garantisco. E lo stampo per poi darlo, infiltrarlo, filtrandolo da sporcizie che macchiano l'abito bianco. E nuovo e caldo già in saldo, sperando in un salto di qualità sulla realtà dell'asfalto. Premesso che questo è l'ennesimo disco, dal primo fino all'ultimo verso costruisco. Premesso che questo è l'ennesimo disco, per spingerlo so solo io quanto insisto. Premesso che questo è l'ennesimo disco, dal primo fino all'ultimo verso costruisco. Premesso che questo è l'ennesimo disco, per spingerlo so solo io quanto insisto. Cristo.